24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Ho sentito alcuni in quest'aula e fuori da quest'aula parlare di svolta autoritaria con questa riforma. Ecco, questa è un'allucinazione e come tutte le allucinazioni non possono essere smentite con la forza della ragione, perché resta un'allucinazione. Non c'è niente di autoritario nel superamento del bicameralismo perfetto, non c'è niente di autoritario nella riforma del titolo quinto, non c'è niente di autoritario nell'abolizione del CNEL. Oh, ma sentite come combatte il ministro Maria Elena Boschi sotto gli occhioni azzurri, con quali artigli ha! Mamma mia, un'allucinazione chi ci accusa di una svolta autoritaria. Subito primo giorno della settimana decisiva, secondo il premier Renzi, per la votazione del Senato, primo giorno di votazioni, slitta tutto. No, slitta. Ma ce la facciamo, lo so che vi siete stancati di sentire Benigni, io non mi sono stancato di sentire Benigni, ogni volta per me è come un inno alla gioia, è come l'inno d'Italia, è come l'inno all'impotenza italiana. Oh, ma ragazzi, ma quella cosa di Benigni lì, voi volete la riforma, ma sapete che è del 1992, credo, 95, non so di quanti anni fa, 20 anni fa, è abbastanza attuale, Che ne dite? È abbastanza attuale? Intanto il ministro Maria Elena Boschi combatte. Io voglio salutare subito Vincino. Buongiorno Vincino, come stai? Buongiorno. Hai sentito come combatte? Altro che occhioni azzurri, eh? È una lottatrice. Mamma mia, no? Li ha sistemati tutti, proprio. Ma convinto, che ti devo dire? Io ero contrario a tutto questo, però mi ha convinto. Ti ha convinto? Tu hai sentito la Boschi? Solo che là al Senato, vedi, ogni senatore su ogni emendamento può parlare 20 minuti, per cui 300 senatori, poi sono tutti vanitosi, no? E poi insomma 20 minuti no, ognuno poi in realtà ne parla 23-25. Sforano pure. E ora chiudo per davvero. Mucchetti l'ha detto 5 volte, ora chiudo. Chi l'ha detto? Il senatore Mucchetti. Poi i senatori giornalisti che sono Mucchetti e Minzolini e Mineo. Il Momo, come si chiamano? La dinastia Min, come l'ha chiamata Renzi. La dinastia Min è più peggio, secondo me, che poi in realtà governava questi, sì, no, questi sì. Sono... Sai cosa ha detto Mineo oggi? Fa un'intervista al Corriere della Sera, ha detto: mi hanno chiamato perfino dal Vaticano un monsignore a dire tieni duro. Ma dai, ma chi gliene frega il Vaticano della riforma del Senato? Ma che l'Italia non funziona al Vaticano, come dire, da 150 anni, 200 anni che loro... Ma il Vaticano, dalla freccia di Porta Pia loro lottano contro lo Stato italiano. No, scusate, ma non lo so, il Vaticano sulla riforma del Senato, un monsignore mi ha chiamato, ma assurda. Voglio salutare anche subito Aurora Lussana, direttorissima, come stai Aurora? Buongiorno Mila, un caro saluto a te e un caro saluto a tutti, dai, padani e non, oggi salutiamo anche, per esempio, Giorgino De Luca, che saluto, è di Napoli, è là in regia, lo salutiamo lo stesso. Aurora, certo, padani e non, è omnicomprensivo, certo. Carmelo Lauricella, per esempio, è milanese di origine, ma insomma il cognome tradisce. Lauricella tradisce, come dire, di dove sei Carmelo? Siciliano, e quindi salutiamo anche Carmelo in regia, salutiamo anche Vincino, che non è, tutti non padani, ti abbiamo accerchiato, cara Aurora. No, ma siamo abituati a essere una minoranza. Sì, la minoranza, mamma mia, dai. Apriamo il Parlamento, forza, alle 6.33 minuti, questa è 24 mattino, è la settimana decisiva per le mie ferie, lo sapevi Aurora, poi non ti chiamo più per un po'. Dove vai? Ma vado un po' via, vado in giro. Bene, dai. Vado anche in Canada a fare vedere. Ah, che bello. Hai visto? Vuoi venire con me? No, io devo lavorare. Chi va al giornale? No, io... mamma mia, che imbarazzo, no? Vabbè, ma... quotidiano ne dico tutti i giorni. Capito, Vincino, ho cercato di conquistarla. Vincino. Ho cercato di conquistarla così, ma non. Va là, che tu rimorchi un botto, c'è mica bisogno della Russana, dai. Ma tu rimorchi un botto, cosa? Ma cosa stai dicendo? Padre di famiglia. Ma pensa a te, ma... mamma mia, poi la gente ci crede veramente. Allora, vabbè, ma hai visto il ministro Boschi? Te l'aspettavi così combattiva, Aurora? Beh, caspita, sì. No, beh, sai, Renzi l'ha scelta proprio per questa sua straordinaria conoscenza sia della Costituzione che ovviamente per questa sua straordinaria presenza scenica ieri, insomma, veramente monopolizzato l'aula di Palazzo Madama, tanto brava che non ascolta nessuno, tira dritto e è rimasta senza la Lega. È rimasta senza la Lega, eccolo lì, caro Vincino, eccolo lì il problema. Calderone lo vedevo là che si è rotto il braccio e forse litiga con la Boschi, però era... No, lui sta mediando, però questi, insomma, dopo la disponibilità in commissione, insomma, non c'è voglia di perdere tempo. Lei, la madre costituente, ha questo compito e quindi, insomma, Renzi vuole accelerare a tutti i costi. Infatti ieri, insomma, ha già perso per strada i leghisti. E questo è un problema, caro Vincino, perché no, come si fa? No, 12 voti, 12 voti. Sì. Però, insomma... No, cioè ci manca la competenza di Calderoli, che è veramente quello di sa tutto di tutte queste degli regolamenti del Senato, le cose, sa proprio tutto, non è che questo sì è un guaio per la competenza, però bisogna vedere, insomma, qual è il costo. Ma sì, ma sono 10-12 voti, ma guardate che Renzi continua a dire, anche secondo il Corriere della Sera oggi, ancora dice: ma dove vogliono andare? Ma non sanno che io ho la pelle dura. Dove vogliono andare questi dissidenti? Quando si devono contare scappano. Sono 185 i voti che ha la maggioranza. Ma loro puntano solo a farglielo slittare, cioè capisci lo smacco? Sì, no, puntano all'unica cosa a cui possono puntare, farla slittare a settembre. E Renzi l'ha capito, cioè ha capito che no, cercano di farmi fare questa brutta figura. Perché io dico se approvi entro luglio o entro agosto e loro vogliono farla slittare a settembre. C'è tutta una questione così di piccole miserie. Ecco, lo volevo dire io, ma Vincino, come dire, a volte è la mia voce, no? Cioè, perché non possono opporsi o no, Aurora? Non è che possono opporsi alla riforma del Senato, possono al limite ritardarla un po', e dai. Sì, però dispiace perché era una grande occasione, potevi riformarla in maniera più organica. Vabbè, però loro c'hanno addosso sta fregola qui, no? Lui è così, lui fa i comici toscani come il grande Benigni che fai sentire ogni giorno la mattina, insomma, sono un po' così. Cioè Renzi è un comico toscano, mi stai dicendo? Beh, i più grandi comici, chi sono? Quelli toscani. Benigni? E poi? Nuti? C'è un bellissimo post che gira. Vauro, Vincino dice Vauro. Giuliano, Mannelli. E poi non lo so. C'è questo social e quindi ripeto, un'occasione perduta, perché anche metterti così, no, questo duo Boschi Renzi, così loro mi sembrano proprio quelli che non ascoltano mai. Non ascoltano. Non ma ascoltano. No, ma c'è un altro. Vabbè, c'ha ragione loro, hanno vinto loro, fanno quello che vogliono. Eccolo, basta, rassegniamoci, così hanno vinto loro. Sentite sempre il ministro Boschi a un certo punto. Beh, però Vincino, quando l'hai sentita citare Fanfani, devo dire che ha vinto le Fanfani. È il tuo idolo. No, non è il mio idolo, però guarda che io ho alcune similitudini tra Fanfani e Renzi, cioè tra il Fanfani che fa il piano casa nel 1953, che ne so, no, tra il Fanfani che con i suoi giovani, insomma, che poi acchiappa il potere dentro la DC e per qualche, poi c'è il fanfani della vecchiaia che è terribile, quello degli asini, le corna, le quello del divorzio, no? È stravolto. Sì. Io quanti fanfani ho disegnato, guarda, nella fanfani proprio. E allora disegna la Boschi come fanfani, sentite, no, la Boschi. No, è alta, bella sì. cosa. E vabbè, ho capito, però ha citato fanfani, senti. Fanfani ha detto una piccola grande verità. Le bugie in politica non servono. Allora, si può essere d'accordo o non d'accordo con questa riforma costituzionale, si può votare o non votare questa riforma costituzionale, si può condividere o meno l'attività del governo, ma parlare di svolta illiberale di questo paese per la presentazione di questa riforma è una bugia. Capito? E le bugie in politica non servono. Le bugie non servono, caro Vincino, è una bugia. Ho avuto una fulminazione ieri. Sì. Satira, no, però è solo satira. Tu hai presente quando alla Camera votò che Rubi era la nipote di Mubarak? Sì, sì. Al Senato lo stanno facendo per cento. Per cento? Cosa vuol dire? Ah, le bugie. No, le bugie. Non ho capito. Questa riforma qua è praticamente un po' un Rubi era la nipote di Mubarak per cento. Ed è una maggioranza enorme. In 10 giorni, ogni giorno, vabbè, ecco, è così. È la migliore che ci possa essere, per cui ce la teniamo. No. Vabbè, ma che devi fare? Però la Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha risposto pan per focaccia, sentite, sempre la Taverna alla Boschi. Ma che è? Il tennis, non ho capito. Niente, no. Cioè, ma che giocano a tennis, ma che devono fare? No, non era questa la Taverna che risponde alla Boschi, c'è una partita di tennis. Ho capito, chiami la Taverna e è una partita di tennis con due, tra l'altro, che fanno dei versi che sembra durante le partite di tennis un'altra cosa. Vabbè, allora sentiamo Mineo, ce l'abbiamo, Mineo? Sì, sentite Mineo. È chiaro 2-0, perché almeno lei ha detto dovete votare questa riforma, secondo me non buona, perché avete fallito. Magari non ho fallito io, però è vero che la classe dirigente di questo paese da 30 anni parla e fa molto poco, quindi è una teoria semplicistica. Ragazzi, ma è Mineo, una teoria. Aurora, ma Mineo, ti piaceva come giornalista? Cioè, ti piace più come senatore? No? Non lo so. Mi piace più come senatore. Perché se è allucinato, come dice la Boschi, si vede che prende giù delle sostanze psicotrope. E no, bello, no, ma come psicotrope? Ma dai. No, scusa, per dare degli allucinati agli altri, lei probabilmente, sì, non so, sospetta quello, no? Sì, sì. Quando sempre delle allucinazioni. Vabbè, ma dai, un'allucinazione no, per dire. Però sta facendo una bella posizione. Vabbè, fa il suo mestiere, lui, insomma, lui è uno che ci sa fare, dai. Sì. Lo sai che verrà travolto, però. Vabbè, verrà travolto, però c'è anche il Vaticano che gli dice di resistere. No. Beato lui che c'ha dietro il Vaticano. Ma questa cosa. Abbiamo recuperato la Taverna, non c'è Djokovic al posto della Taverna, sentite. No, se dice che le bugie in politica non servono, smettessero di dirle. Se questa è un'allucinazione, vedere in una riforma che porta alla non elettività del Senato, a una legge elettorale che dà una maggioranza bulgara alla Camera dei Deputati, che alla non elezione si può eleggere il Presidente della Repubblica, che Parlamento e Presidente della Repubblica autoreferenziati si possono eleggere 10 membri del CSM. Se noi viviamo di allucinazioni, la ministra Boschi probabilmente dice delle gran bugie. Ecco, vabbè, siamo vicino, siamo alle schermaglie, così, bugie, allucinazioni. Una risposta bassa, diciamo. La Taverna ci ha abituato a un tono molto migliore. Tra l'altro, guardate qua, tra l'altro sentite un po', pagina 7 della Stampa, e la Boschi inchioda Matteo all'eredità di Fanfani. Oh, guarda qua che c'è scritto sulla Stampa, Renzi non lo cita spesso perché è evidente il rischio di finirci assimilato. Caro Vincino, entrambi toscani, entrambi decisionisti, entrambi aspiranti rottamatori. Entrambi sopra il 40%. Oh, una similitudine tra Renzi e Fanfani, ma ci hai azzeccato una volta, Capito. No, ma infatti c'è qualche. Poi bisogna dire che l'ex sindaco La Pira, a cui lui si è riferito, sì, da sindaco, era, sì, un fanfaniano. E infatti lui dice, cita sempre La Pira, non Fanfani, no, cita La Pira. Sindaco santo. Sindaco santo. No. Quello che andò in Vietnam, fece, come dire, uno che camminava per il mondo. Avete visto là in Angola che vendeva Armani cose? Sì, ma chi Armani? No, è andato in Angola. Italy, vendeva in Italy. Ha raccontato oggi Libero, in Angola Renzi è andato e la cooperativa dei cementificatori, quella di Ravenna, no, della Lega Coop, ha preso un appalto da 250 milioni di euro per costruire strade. Una vittoria del Made in Italy pazzesca. Ma ho capito, ma perché, se sei un'azienda costruisce strade in Angola, è una cosa positiva, no? Assolutamente sì, sono d'accordissimo. E che cavolo, voglio dire. Se vende pure magliette, cashmere e cose, va bene pure. Ma cosa? Il cashmere? Le automobili non so più se sono le Fiat, non so più se sono made in Italy o made in Irlanda. Il cashmere in Angola, fai il bravo. A parte che l'Angola è uno dei paesi africani con maggiore tasso di sviluppo, di crescita, no? No, non so, Aurora, non va male se andiamo a costruire strade in Angola per 250 milioni di euro? Tutte le strade in Cina le stanno costruendo i cinesi, quindi... Non è un modo per aiutarli a casa loro, come dite voi, sì, aiutiamoli a casa loro, sì, costruiamogli, sì, un raccordo autostradale, per esempio. Così arrivano prima in Italia. No, ma no, no, ma che scherzi, no, ci sono paesi che stanno crescendo in maniera straordinaria in Africa, sì, sì. E come sì, si dovrebbero aiutare un po' anche più fra di loro gli africani, no? Quella auspicata solidarietà africana. Sì. Tu non la vedi, non vedi la solidarietà africana. Ci sono tante iniquità in Africa, insomma, c'è grande ingiustizia sociale, guerre tribali, però no, vabbè, ha fatto bene, ci mancherebbe. Ha fatto bene, ha fatto bene. 250 milioni. Certo, la cooperativa che racconta Libero ha qualche problema con l'Expo, però insomma è la cooperativa più importante. Ma l'ENI credo che sia la seconda per capacità operativa. No, beh, insomma, ma va bene. Ha fatto bene. Va bene, allora c'è l'imprimatur della Lega, quindi Renzi su questa cosa... No, ha fatto bene. Portare a casa un po' dei 100.000 africani che sono sbarcati negli ultimi mesi. Mamma mia! Sì, fare qualche cosa. Sì, certo, Renzi parte per l'Angola, un paese tra l'altro da cui non vengono nessuno di quelli, e si porta dietro. Andare in qualche paese invece da dove parto. Vincino, fai qualcosa tu. Adesso gli dalle caserme. Tu che sei siciliano, di qualcosa, Vincino. Tu che hai nel cuore l'idea della migrazione, del popolo di migranti, dai, di qualcosa. Di conquistatori, di conquistati, di qualcosa, forza. No, di qualcosa, sì, mandate i traghetti là, che non questi qua che vanno, cioè sono morti 180 presenti in quel barcone, non erano solo, questo è terribile, io bisogna, secondo me bisogna mandare i marò sulla costa, guarda, messi là, prendere invece, entrano nel barcone, farli entrare tutti nel traghetto e portarseli tranquilli nel traghetto e portarli a Marsiglia. Ma stanno facendo già quello che stai dicendo. Che in teoria, è l'operazione... No, questi 100 metri da soli, non li devono manco fare questi 100 metri del barcone. Ma non li fanno neanche più. Ma sono morti 180. Dai, effettivamente, allora, sono morti in 180, cioè voglio dire, vuol dire che non è che vengono salvati così, se sono morti in 180, se fossero salvati con autostrade e venire qui, non morirebbero, cioè. Voglio dire, soffocati. 24 mattino. Buongiorno signor mio. È certo che Renzi è ingrassato, è gonfio di odiosa superbia, di arroganza, di boria, di presunzione, di sfrontatezza, di tracotanza. Alessandro, strano, da tante colpe, tante accuse, tante verità che sono uscite dal processo, adesso non si è diminuita la condanna, addirittura assolto, come si vede che ci sono giudici uomini, hanno difeso la loro razza. Alessandro Milan, ti fa star bene a tua insaputa. E per il presidente Berlusconi, hip, hip, hip, urrà! Alessandro Milan, lo sa lei, vero, che la vera felicità è nel pregustare? Allora io non le auguro belle vacanze, io le auguro una settimana di una felicità intensa di pregustazione, veramente, alle stelle. Dai, che questa Italia ce la fa. Senti, caro Alessandro, io non ho bisogno di prendere un forcone, perché la mia vita l'ho vissuta benissimo essendo nato nel 1933. Voi vi troverete nei guai. Buongiorno, signore Milan. Io volevo conoscere la signora Lussana, quella della Padana, e gli ho detto a mia nipote: fammi conoscere la signora Lussana. Mi ha detto: mo ti porto su internet, è pericoloso, io ho detto non è. Quando è bella la signora Lussana. Io pure, signora Lussana, facevo i lavori, ho gli astro dentro la mia capanna e ci tenei pure l'olio. Quando si bella signora Lussana. Aurora, cos'è che faceva questo signore? Allora, dobbiamo riannodare un attimo i fili e spiegare a Vincino che non c'è. Cos'è che fai? Stai ridendo, spero. No. Dobbiamo raccontare a Vincino. Allora, la scorsa settimana Aurora Lussana eravamo qui e a un certo punto si è lanciata con questa frase: io sono per l'amore orgiastico. È così, proprio detto così alle 6.55. E che ha detto questo signore? Anch'io sono per l'amore. Fatemelo risentire. No, ma Giascia. Dimensione primordiale. Cos'è che è? È la nostra dimensione primordiale, l'amore panico, orgiastico, dionisiaco. È una dimensione sana, quasi sana. Ma sì, ma anche quasi rimossa dalla nostra contemporaneità. E tu dici: riscopriamo. Oh. Abbiamo l'amigdala, no? Che è a l'amigdala, capo della nostra dimensione istintuale, e facciamola un po' vivere questa dimensione primitiva. Oh, Vincino. No, comunque faccio di quei danni che la metà basta. fai di quei danni che la metà basta. Questo signore ha chiesto a suo nipote: fammi vedere questa Aurora su internet. Hai capito? Poi hai visto Aurora Lussana, ho detto: che bella Aurora Lussana. Oh, va bene. Bella una volta ormai. Bella, fammi conoscere la signora Lussana. Senti, m'ha detto: mo ti porto su internet, è pericoloso, io ho detto non è. Quando è bella la signora Lussana. Io pure, signora Lussana, facevo lavoro, ho gli astro dentro la mia capanna. Ho lavoro in ogliastra. La provincia della Sardegna. Esatto, lavoro in ogliastra, più che l'amore. Anche quello, Vincino. Nella capanna. Esatto, no, nella capanna. Allora, propongo una clausola di salvaguardia come contro il riso cambogiano che invade il nostro sistema agroalimentare contro la Lussana. Contro la Lussana, va bene. Va bene, tranquilla, tanto venerdì poi vado in ferie, non ti chiamo un po', ti lascio il tuo amore orgiastico e così. E Vincino, è così, è per l'amore orgiastico, riscopriamo gli istinti primordiali, le cose positive. L'amigdala, Vincino. Assolutamente, sono d'accordo al 2700. Oh, finalmente una riforma. No, anche perché internet è pericoloso, perché ci ha portato a questa deriva di picabiale, macchine sterili. Ormai noi siamo questa sessualità eterodiretta e commercializzata, totalmente genitale. No, è una cosa gravissima. Ma è gravissimo, cioè, basta internet, incontratevi e riscoprite l'amore orgiastico in maniera sana. Il signore mi venga pure a trovare invece che andare su internet a cercarmi. Oggi lo sai dove mi trova? Oggi mi trova alle 11 lungo viale Enrico Fermi, che è un vialone di ingresso a Milano, o scendi dalla Milano Meda quando vai a Milano, perché lì Pisapia ha piazzato tutti gli autovelox. Infatti Milano è la città record come multe, no? Appena preso una multa, lascia fare. Hai visto? Vieni anche te alle 11, c'è anche Matteo Salvini, c'è un presidio della Lega. Ho capito, ho preso la multa, ma me la meritavo, cioè non è che posso dire sì, cioè ho preso la multa perché andavo più veloce del limite. Ho capito, ma cosa paga ogni milanese ogni anno? Lo so. 170 euro, lo scriveva ieri il Sole 24 Ore. A Caserta sai quanto paga? 70 centesimi. Lo so. Oggi avrò le ospiti alle 9, il sindaco di Caserta alle 9, io invece avrò l'ospite, il sindaco di Caserta e l'assessore alla sicurezza di Milano. Meraviglia, Milano. Allora. Ecco. Alle 11 venite al presidio. Sì, alle 11 tutti al presidio, vicino. Ma non li avvertono là gli automobilisti facendo con i fari cicchi cicchi che là c'è l'autovero? No, noi qua in Sicilia si fa così. Si fa così, un chilometro prima, e fari. Questa è una cosa di condivisione, di civiltà condivisa. Esatto, va bene. Allora, vista proprio altro che amore orgiastico, qui invece Salvini se la prende con i gay. Senti qua Salvini, Salvini. C'è il centrodestra. Vuole ragionare con la Lega, ci dia una mano sulle nostre proposte. Abbiamo bisogno di figli, non nascono più figli. L'anno scorso siamo tornati indietro di 34 anni. La democrazia e la demografia sono collegate. Una società che non fa figli è una società che muore. Certo, vorrebbero spiegarci che nel futuro anche due uomini o due donne riescono a combinare qualcosa, quello non è futuro, quello è follia. È follia, è follia, Vincino. Ma Salvini per certe cose poi è del 1930, diciamo. Vedi, infatti c'è questa chiusura, Aurora. Dai, l'amore orgiastico. Come dire, l'amore orgiastico si fa pure con i gay tutti insieme, no? Maschi, femmine, e poi alla greca, dai. Esattamente. Alessandro Magno, su. Prende quello che prende. Sì, ma che si riproduce solo fra uomini e donne al momento, a meno che interviene ovviamente. Ho capito, però se ci diventa in tanti. Però era vabbè, insomma, io credo che un movimento come la Lega, che ha una base molto popolare, sta raccogliendo anche un disagio forte che c'è. Ci sono famiglie che magari vorrebbero avere più di un figlio e non se lo possono permettere. Sì. E credo che le pochissime risorse di welfare che destiniamo alle famiglie vadano aumentate. Quindi, insomma, l'appello è un po' questo. Io questo era l'appello. Credo che sia una grande... spero in una comunità che dà delle opportunità avere zero figli come 10 figli. Cioè, le donne sono libere quando possono scegliere di averne 0 di figli o 10. Questa è un'opportunità, certo, che bisognerebbe garantire. Vabbè, però, insomma, questa tirata contro i gay, Vincino, non c'è piaciuto. Ma sì, dai, contro i gay. Ma si parlava di famiglia. Ma le famiglie hanno... Ma sì, ma nel senso contro i gay, dai, contro il fatto che due uomini o due donne possono avere... Che vuol dire? Cioè, contro un certo ideale? Se fossimo contro i gay, saremmo contro la nostra comunità. Ma no, contro i gay, ma no, non contro... Fai la brava. Ma non contro i gay, nel senso contro l'idea di una famiglia di due dello stesso sesso, dai, ci siamo capiti, questo ce l'aveva Salvini. Comunque io qua devo fermarmi, come devo fare? Allora, intanto Vincino, ti saluto, Aurora Lussana ti saluto, ma lasciaci con una ricetta per l'estate, per tutta l'estate, la ricetta per tutta l'estate, dai. Consiglio di fare qualunque cosa col riso padano, piemontese, sì, lombardo, non veneto, quello contro cambogiano. L'invasione del riso cambogiano. Mia, ragazzi. Ma scusa, non ti piace le mondine a te? Non ti piacciono? Cosa c'entrano le mondine? Ma magari il riso cambogiano è buonissimo, non lo so. Ma non è vero. Guarda, oggi assaggio, vado in cerca del riso cambogiano, voglio assaggiare. Sono curioso, voglio assaggiare, voglio no. Magari è buonissimo. Ma non è buono, ma scusa. Ma non è buono, cosa ne sai tu? Ma tutelato, certo. ma è buonissimo. Ma uno si mangia il riso padano e poi il riso cambogiano. La storia agricola della nostra pianura. Vabbè, Vincino, fatti un po' di riso padano, dai. Intanto. Assolutamente no, guarda, meglio i risi thailandesi, cambogiani. Eccolo là, eccolo. Buone vacanze, va. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, sono le 7:16, siamo pronti a leggere i giornali e voi, cari debosciati d'Italia, siete già pronti, attivi per le vostre lunghe giornate produttive di lavoro ed impegni? Forza, dai, che lo schema Allegri è sempre quello migliore. Dai! E allora... siamo qui, vi ricordo che oggi parleremo di una vicenda delle 10.000 firme raccolte da un'intera comunità in provincia di Bergamo per questo imprenditore che anni fa ha ucciso, sparando con un colpo di fucile dal balcone, una persona che gli stava rubando il SUV. È stato condannato in via definitiva, ma un'intera comunità chiede a Napolitano la grazia per questa persona.

44 anni, di Roma, professionista, ha sempre sognato di cullare tra le braccia un piccolino, racconta di come ha fatto ricorso alla fecondazione eterologa in Italia, che ripeto è vietata dalla legge, ma poi la Corte Costituzionale in qualche modo l'ha resa possibile, evidentemente. Sempre per quel che riguarda la cronaca, vi segnalo che contrariamente a quelle che erano state le richieste della pubblica accusa, il giudice ha deciso che ci sarà un processo per tentare di far luce sulla morte di Giuseppe Uva, artigiano di 43 anni, morto nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008 in ospedale a Varese dopo un fermo da parte di due carabinieri e dopo essere stato trattenuto in caserma dove arrivarono anche sei poliziotti. È una vicenda controversa, i familiari dicono è una morte per percosse. È un altro caso, insomma, in cui le forze dell'ordine andranno a processo. La sorella in lacrime dice basta bugie. Un giudice ha disposto che ci sarà un processo. Non ci credevo più perché il pubblico ministero aveva chiesto il proscioglimento. Ma quando il giudice in udienza ha iniziato a elencare tutti i reati senza escludere nulla, ho sentito una fitta al cuore, sono scoppiata a piangere e ora voglio la verità. Partirà questo processo a ottobre, voglio capire finalmente cosa è successo quel 14 giugno 2008, perché hanno preso mio fratello in strada, l'hanno portato in caserma, ancora oggi i motivi non si sanno. Ci sarà dunque un processo. Va bene, ci fermiamo qui, non prima di ricordare la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali che oggi va a Libero, che fa una mezza pagina al primo anno di George, il principino George, che non sarà mai re. Bruna Maggi racconta come George Alexander Lewis, figlio di William e Kate, compie oggi il suo primo anno di vita con una festa a base di dolce torta decorata con Postman Pat. E insieme alla zia Peppa farà con tutta la Royal Family questa bella festa. Evviva George! Mamma mia! 24 mattino. Eccoci qua alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Partiamo da questa vicenda di cronaca. 8 anni fa, era il 6 settembre 2005 per la precisione, un imprenditore di Arzago d'Adda, e siamo in provincia di Bergamo, si chiama Antonio Monella, diciamo, mettiamola così in due righe, sventa una rapina, nel senso che arriva un albanese, 19 anni, Ervi Soksha, cerca di rubargli il SUV e lui prende un fucile dal balcone e spara, ammazzando il rapinatore. Per questo è stato condannato a 6 anni e 2 mesi, sentenza definitiva per omicidio volontario, nonché al pagamento di 150.000 euro alla famiglia del rapinatore. Monella al momento non si trova in carcere perché la pena è stata differita. Perché? Perché nel frattempo è arrivata una richiesta di grazia con 10.000 firme. Una grazia richiesta al Presidente della Repubblica, colui che può appunto decidere e firmare i provvedimenti di grazia, perché si chieda che non sconti la pena, perché secondo la comunità intera che ha firmato questa petizione, quest'uomo agiva per legittima difesa. Ora, non dobbiamo, come al solito lo dico sempre, ricostruire noi il processo, non si fanno qui i processi si fanno nelle aule, ci sono stati, c'è stato una sentenza definitiva, ma quello che mi colpisce è che questa richiesta di grazia è arrivata da proprio da tutti, ma anche da rappresentanti istituzionali, consiglieri comunali, sindaci, parlamentari di tutte le forze politiche, Forza Italia, Lega Nord, Scelta Civica. Per esempio, i due ospiti che abbiamo qui, dei tre ospiti che hanno firmato questa petizione, sono politicamente ben divisi. Sono Daniele Belotti, che è segretario provinciale della Lega a Bergamo e che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Così come saluto il sindaco di Arzago d'Adda, in provincia di Bergamo, Gabriele Riva. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è del PD, nonché segretario provinciale del PD a Bergamo. Ecco, sì. Mi ha incuriosito, mi ha colpito, cioè mi vorrei capire qualcosa di più. Intanto, sindaco, mi faccia capire, ho letto che lei è andato incontro anche a qualche critica all'interno del suo partito per aver appoggiato questa iniziativa, che lei in prima persona ha portato avanti, è così, ce lo può confermare? Sì, c'è stata una discussione chiaramente interna al partito rispetto a questa scelta che ho fatto, ma che io ho giustificato, lo diceva bene lei nelle sue parole, non, e vorrei che fosse chiaro, nel tentativo di mettere in discussione l'operato della magistratura. Quando si fa una richiesta di grazia si accetta la colpa, si chiede però che si eviti, sono passati ormai 8 anni, quella che io definisco una tragedia nella tragedia. Credo che si possano trovare delle misure diverse alla carcerazione che eviterebbero, ripeto, che questa famiglia che già ha vissuto quella notte tragica possa ripiombare ancora in una nuova tragedia, che è quella di vedere il proprio capofamiglia che è che anche... va in carcere. Esatto, però le chiedo, non c'è appunto una sentenza molto dura di omicidio volontario e quindi non c'è il rischio di in qualche modo delegittimare le istituzioni o aprire a quello che potrebbe essere il rischio di dire vabbè, fatevi giustizia da soli se arriva un rapinatore in casa? Noi abbiamo davvero subordinato questa raccolta firme che abbiamo fatto in maniera molto civica e trasversale attraverso appunto delle persone della nostra comunità, tra l'altro 10.000 firme, tenga conto che il mio comune fa 3.000 abitanti, quindi appunto Stiamo parlando di una raccolta firme che ha coinvolto praticamente tutto il paese e tantissimi territori limitrofi che hanno firmato, ma l'abbiamo fatta proprio invece nell'ottica di ribadire che quello che è successo non doveva accadere, ma io credo che ci sia un contesto particolare che non possa non essere tenuto in considerazione, quello appunto di una rapina in casa, di notte, del fatto che c'erano in casa dei minori, la figlia di questo imprenditore, e che quindi quel gesto va contestualizzato in quel modo. Teniamo fermo che quello che è successo non doveva accadere, ma ripeto, col massimo rispetto della magistratura, crediamo che un atto di clemenza possa davvero aiutare a ritrovare serenità. Tra l'altro, Belotti, so che... invece mi sembra più una battaglia, se la posso mettere così, una battaglia leghista che di altri partiti. Però il sindaco Riva, segretario provinciale del PD, ci ha spiegato i motivi che hanno portato a sposare questa causa. È più una battaglia leghista questa, Belotti, o una battaglia trasversale di cittadini comuni? È una battaglia di buon senso e di giustizia e di tutela dei cittadini onesti. Perché per combinazione, per una tragica combinazione, proprio in questi giorni, sabato scorso, è successo un episodio analogo a Pontoglio. C'è un piccolo particolare che è stato omesso. Monella non è che gli stavano solo rubando il SUV, gli erano anche entrati in casa qualche minuto prima e qualche secondo prima, tant'è che se li è trovati all'1 o alle 2 di notte in salotto a tu per tu. Dopo questi sono scappati e nello scappare hanno cercato di portare via la macchina. Ma un episodio simile, furto dell'auto, è successo all'interno di una villetta, è successo a Pontoglio, con, guarda caso, una persona della stessa età, 52-53 anni, un macellaio. Com'è finita? Che questo si è preso una bottigliata in testa ed è morto il macellaio. E hanno arrestato proprio l'altro giorno i componenti della banda, guarda caso, 4 albanesi che operavano tra le province di Bergamo e di Brescia. Allora, capite che noi legittimiamo in modo totale il diritto alla difesa, alla legittima difesa da parte di chi entra nelle case degli altri. E questo certo, però capite, e nel qui voglio appunto introdurre il mio terzo ospite che so essere, immagino, molto critico rispetto a queste due posizioni, che però sono due posizioni, mi sembra di capire, diverse. Si tratta di Bruno Tinti, ex magistrato. Buongiorno dottor Tinti, ben ritrovato. Editorialista del Fatto Quotidiano. Mi sembra le posizioni siano diverse. Ha sentito il sindaco Riva, dice: noi non mettiamo in discussione la magistratura perché c'è stata la sentenza, però crediamo che non sia che sia una nuova pena portare una persona in carcere, e facciamo una legittima richiesta di grazia. Mentre Belotti della Lega dice invece: no, noi vogliamo rivendicare il diritto a una legittima difesa, se no finisce come quello che è stato ucciso a Pontoglio. Lei che ne pensa? Ma sono due posizioni inaccettabili, una più grave dell'altra. Cominciamo da quella meno grave, che è la prima persona che ha parlato, il sindaco di questo paesino. Sì. È evidente che, per carità, ha cercato di fare del suo meglio per dare una sorta di patente di legittimità a quello che hanno fatto, ma insomma la tesi, cerchiamo di evitare che si aggiunga tragedia a tragedia, è ridicola, vale per qualsiasi episodio criminoso in cui, perché non un omicidio colposo sulla strada, sto guidando ubriaco, metto sotto qualcuno con la macchina, ammazzo due persone e poi mi si dice va bene, ma in fondo mi era successo solo quella volta, evitiamo di aggiungere tragedia a tragedia. In questo modo neghiamo completamente dalle radici il fondo della giustizia penale, che non è solo repressione, è anche prevenzione, perché le persone devono sapere che certi comportamenti delittuosi vengono puniti, altrimenti di fronte a un buonismo di questo tipo che cosa può succedere? Che tutti immaginano che poi alla fine arriverà un perdono, insomma. La cosa molto più grave, che direi quasi si commenta da sé, è quella che invece viene espressa dal secondo sindaco che ha parlato. Sì. Questo intanto dal punto di vista giuridico sono un cumulo di sciocchezze, che c'entra la legittima difesa. La legittima difesa serve per evitare che mi venga arrecato un danno, ma naturalmente deve essere proporzionata al danno che mi si deve arrecare. Quindi mi avesse sparato mentre stava in casa davanti a lui, magari armato in condizioni minacciose, beh certo, nessuno avrebbe negato la legittima difesa. Ma qui dal balcone. Qui, per definizione il danno è limitato al SUV che gli stanno rubando, perché sta scappando. Sì. E allora che legittima difesa è? A meno che non si voglia dire che è intollerabile che un albanese razza reietta mi rubi il SUV e quindi io gli sparo. Quel paragone fatto con i quattro che hanno ammazzato l'altra persona, poi è veramente è una situazione, ogni situazione è diversa, però la situazione è analoga, cioè un'intrusione in una vita, un'intrusione in una vita. E beh, ma anche in questo caso era entrato in casa, e poi allora stava andando facciamo? Via. Ammazziamo tutti gli albanesi che circolano nei pressi delle case perché magari entrano. L'avesse ammazzati lui, il morto poverino, mentre stavano aggredendolo, avremmo fatto era un monumento. Era legittima difesa. Ma non si può dire preveniamo. No, vorrei aggiungere una cosa, perché sono curioso. Io spero, per la tesi di questi due signori, che la prima delle firme di grazia su questa interminabile lista sia della, come si chiama, Monella, perché altrimenti è soltanto propaganda politica, perché e vediamo, dalla persona o dai familiari. Ecco, chiediamo, intanto ha dato tanti elementi, prima vorrei da Belotti capire una replica. Effettivamente Belotti, lei la metti sulla questione della difesa giudiziaria, ma questa c'è già stata in aula la difesa, ed è stata una difesa perdente evidentemente per la sentenza, cioè riaprire la questione di dire era legittima difesa, per il processo non lo era, quindi sì no, ma guardi, ha dato tanti elementi allucinanti, dando anche ovviamente nel puro stile di sinistra, mi sembra, o da radical chic, dagli ignoranti a chi ha parlato prima di lui, quel signore. Ma io chiedo, ma lui ha fatto esempio, se entrano in casa e viene aggredito, allora può reagire. Oh, ma qui una persona è capace di capire che sono situazioni imprevedibili in cui in pochi secondi una persona onesta si trova in casa uno che vuole rapinarlo e che non sa che reazione può avere. Mi scusi, deve chiedere al rapinatore, mi scusi, lei vuole un caffè oppure viene qua e mi prende e mi spacca la testa? O succede come quegli albanesi che hanno arrestato adesso, che hanno nella stessa notte in cui hanno ucciso il macellaio nella rapina, o il giorno successivo, il giorno prima, hanno preso e legato marito e moglie al letto? Sì, cioè, però Belotti, adesso, no, la differenza, la differenza che fa in punto di diritto, Tinti, è che se fosse stato un'aggressione nel momento in cui erano tutti in casa è un conto, ma nel momento in cui stava andando via, diciamo, col SUV, quindi dal balcone, ma dal punto di vista processuale è un altro. Ma ripeto, non è che dobbiamo riaprire il processo, Belotti, cioè la questione... No, certo non dobbiamo riaprire il processo, però quello che continua a succedere nelle case, nelle nostre case, nelle case della gente onesta, è che magari qualcuno adesso un minimo di reazione può anche averlo. No, secondo il dottor Tinti, no, deve essere assolutamente tutelato che il rapinatore possa fare, cioè, quello che vuole. Più che secondo Tinti, secondo la legge, secondo, diciamo, quello che stabilisce la legge. Non secondo la legge. E infatti è stato condannato Monello. No, c'è un piccolo particolare, che lo stesso episodio a pochi chilometri di distanza, a Caravaggio, dove degli immigrati entrano nella proprietà di un rivenditore, se non ricordo male, di attrezzi agricoli, sfondano la vetrina, dal balcone sopra ha sparato, ha sparato e ha fatto la stessa cosa che ha fatto in questo caso. Monella, è stato assolto. Ma allora, ogni procedimento dottor Tinti, mi spiega la differenza tra i due casi, ma soprattutto la invito a vivere di persona una situazione del genere, poi potrà parlare a dire e no, questa è un'altra, la reazione. Questa è un'altra questione interessante. Prima vorrei però andare dal sindaco, tornare da Gabriele Riva, poi andare un attimo in pubblicità e riprendiamo. Sindaco Riva, intanto ci aiuta a capire, come ha detto Tinti, c'è la firma di Monello, dell'avvocato dei familiari, in questa richiesta? Chiaramente c'è. Allora io dico due cose molto rapide. Uno, sono sempre abituato a dire quello che penso, quindi vorrei dire al dottor Tinti che per me non esiste il minimo tema che riguardi la componente etnica. A parti invertite, fosse successo un mio residente albanese rispetto ad un rapinatore italiano, mi sarei comportato in questa situazione allo stesso modo. Primo, perché non esiste nessuna componente etnica in quello che abbiamo fatto. Secondo, se esiste un istituto giuridico di grazia, di richiesta di grazia, che tra l'altro si basa proprio sul pentimento del colpevole, non capisco perché si delegittima la magistratura se si percorre nei canoni istituzionali una richiesta di grazia che ha un iter prestabilito dalla nostra stessa Costituzione. La richiesta di grazia, io, come ho detto, è assolutamente legittima, non riesco davvero a capirlo. Però terza e ultima cosa, credo che l'esempio dell'ubriaco al volante non regga minimamente, perché proprio il tema su cui noi abbiamo raccolto le firme e fatto questa richiesta di grazia è il contesto assolutamente incredibile e irrazionale nel quale in pochi secondi una persona che subisce un furto di notte con delle persone in casa che non sa quante sono, con un minore a letto, purtroppo prende la sciagurata decisione di far partire quel colpo di pistola. Ribadisco purtroppo, perché nessuno, io in primis, vuole mettere in discussione la colpa e quindi l'iter della magistratura. Allora, facciamo così, ripartiamo tra due minuti. Ricordiamo che sono state 23 su 2688 pratiche esaminate le grazie concesse da Giorgio Napolitano. Eppure dai giornali si racconta che c'è un abbastanza ostentato ottimismo sul caso. Vorrei capire anche in base a che cosa. Dopo la pubblicità rientriamo. 24 mattino. Eccoci, stiamo discutendo delle 10.000 firme che un'intera comunità, possiamo dire, trasversalmente raccolto per chiedere la grazia per Antonio Monella, 55 anni, imprenditore edile, che nel settembre 2006 uccise un rapinatore durante una rapina nella sua villa. E è stato condannato a 6 anni e 2 mesi, ma appunto si chiede la grazia. Dottor Tinti, insomma, cosa guardi, la questione, secondo me, che dice Belotti, il segretario della Lega, di dire si metta un attimo nei panni di questa situazione, effettivamente non crede che a volte, quando si giudica, ed è giusto per carità, nelle aule di tribunale si applicano delle misure così asettiche, così fredde, la componente umana entra veramente poco. Cioè, uno se si pone in quella situazione, hai voglia a dire prima bisogna aspettare che ci sia la minaccia? Uno è lì, c'è anche la componente umana, c'è la componente emotiva, tutto questo non conta per il codice. Questo, che ci sono i processi, che c'è la giustizia, che non siamo più, si spera, un paese di barbari, perché certo che la componente umana induce le persone ad agire in maniera sbagliata. Io spero di non fare questi errori, ma magari potrebbe capitare anche a me. Ma è proprio per evitare questo che ci sono i processi, che la civiltà si è evoluta da quando ognuno si faceva giustizia da solo, ha la delega al potere dello Stato di tutelare la collettività. La componente umana viene valutata, ma pronto? Sì, la sentiamo benissimo. Sì, ma viene valutata nel contesto di un rito processuale che mette tutti i cittadini sullo stesso piano e che ha tra la sua, tra le sue funzioni, come dicevo prima, quella di incivilire la società, di rendere possibile a tutti di vivere in un posto dove non si spara dalle finestre. Mm. Dire ma forse lei avrebbe fatto altrettanto dimostra solo che purtroppo questa barbarie magari è più diffusa di quello che crediamo. Sì. Ed è per questo che la grazia, secondo me, sarebbe un errore, perché si dimostrerebbe a tutti che tutto sommato lo Stato si rende conto di questo e che ammette che i cittadini facciano a meno di lui stesso Stato. Cioè, lei, secondo lei la grazia potrebbe aprire addirittura un fronte, come dire, fate pure così, che tanto poi prima o poi. E poi quello che dice il sindaco, adesso mi ha detto no, è Bonelli. Che cosa teorizza Bonelli? Ma insomma, mettiamoci al posto di questa gente, viviamo in un mondo pieno di aggressioni, lui poi ce l'ha in particolare con gli immigrati. Belotti. È proprio quello che dice lui, ed è proprio questo che noi dobbiamo evitare, questa decisione da parte delle persone oneste di evitare che i disonesti pregiudichino la loro vita. Ma come evitarlo? Evitarlo non delegando alla collettività una tutela generale, ma ammettendo che ognuno, dove può, si faccia giustizia da solo. Ecco, devo dire io che in un mondo così non vuole vivere. E devo dire che, se devo giudicare dai messaggi che stanno arrivando, sono, diciamo, forse il 90% che criticano la posizione di Tinti e che dicono ha fatto bene. Questo per sintetizzare, ma ovviamente il messaggio è una cosa brutale. C'è solo Daniela che mi scrive: questa non è difesa, è omicidio, meritava addirittura l'ergastolo. Ma sentiamo due dei tanti ascoltatori che ci stanno chiamando. Marta da Padova. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho sentito il primo intervento del magistrato. Sì. Lo trovo alquanto fuori luogo quando lui dice vabbè, allora praticamente se io sono ubriaco alla guida, ma persone posso dire l'ho fatto solo una volta e quindi evitiamogli la pena. Ok, questa persona casa da solo, stava dormendo nel pieno della notte con la famiglia, io non credo che sia la stessa situazione. È chiaro che se io mi metto ubriaco alla guida, stava seguendo il ragionamento. Prima il sindaco Riva ha detto non vogliamo aggiungere una tragedia, quella del carcere, a una tragedia già vissuta, e allora Tinti ha detto allora non vogliamo aggiungere la tragedia se uno ubriaco ammazza qualcuno, perché una volta se ubriacato non aggiungiamo a tragedia. Era un paradosso per dire non si fa così, invece Però quello che voglio dire io è che le condizioni di partenza sono completamente diverse. In questo caso la persona stava a casa sua, quindi. E peraltro voglio aggiungere su quest'ultimo intervento riguardo al fatto che la gente si faccia in qualche modo giustizia da solo, sono d'accordo. Peraltro io sono contraria alla pena di morte, non sono leghista, quindi non sposo nessuna di queste teorie. Tuttavia è evidente che negli anni, vuoi per una carenza di fondi, non lo so qual è il motivo, io vivo in una città di criminalità e mi sento meno sicura che in passato. Ma guarda, della sicurezza abbiamo anche parlato, abbiamo fatto una puntata sulla sicurezza e su anche la percezione di sicurezza, abbiamo fatto una puntata proprio settimana scorsa con tanto di dati. Grazie Marta. Andrea Bari da Giovanni, buongiorno Giovanni. Buongiorno dottor Milan. Niente, io sono rimasto un po' sconvolto e vorrei che il dottor Tinti riascoltasse le parole che ha detto, perché stamattina lui ha detto la legittima difesa deve essere proporzionata e fin qui siamo d'accordo. Sì. Allora se un albanese viene, ti punta una pistola in faccia e spara, allora sei legittimato a sparare anche tu. Sì, certo, quella è legittima difesa. Ma io non so se si rende conto di quello che ha detto. Cioè, cosa dobbiamo aspettare? Il codice stabilisce così, cioè se c'è un'offesa in quel momento, allora io posso reagire, non è che bisogna aspettare che uno spari. Se uno mi tira fuori la pistola in casa, io posso con una pistola legittimamente difendermi. Ma diceva Bruno Tinti, in questo caso la persona uccisa stava andando via e dal balcone l'imprenditore ha sparato. Questo è il concetto. Quindi è capitato di avere delle persone in casa? No, ma no, no, io sto raccontando solo la dinamica. Quando lei ha qualcuno, ha un bambino piccolo in casa e si trova delle persone di un'altra nazione, persone che non capisce neanche il linguaggio quello che dicono, che rischiano di andare nella stanza di suo figlio, poi magari scappano, però lei non sa quanti sono scappati, se è scappato uno, sono scappati tutti e tre, magari sì, due stanno in camera di suo figlio, sì, e uno è andato via con il SUV. Lei che cosa, in 30 secondi? Ma io non lo so, spero di non trovarmi mai nella situazione, lo poi so, non avrei una pistola e quindi non saprei cosa fare, però insomma, però mi rendo conto, Giovanni, ma guardi, stiamo discutendo proprio di questo. Vorrei capire dal sindaco Riva che ottimismo, l'ottimismo che leggo sui giornali, perché e da cosa è fondato. Ma no, guardi, sinceramente l'ottimismo forse che è trapelato sui giornali è eccessivo. Semplicemente nel provvedimento di differimento di 6 mesi all'esecutività della pena, il magistrato di Brescia che ha stabilito questo differimento scriveva nelle motivazioni rispetto a una non improbabile a un non improbabile atto di clemenza rispetto alla richiesta di grazia. Quindi questa frase qui ha fatto, diciamo, sperare, perché probabilmente il giudizio istruttorio del magistrato di Brescia rispetto all'iter processuale, su cui davvero non entro perché non ne ho competenza, però lascia spazio probabilmente a qualche venatura di ottimismo. Quindi questo, vabbè, staremo a vedere, anche perché entro agosto pare si decida. Esatto, il 25 di agosto dovrebbero scadere i 6 mesi di differimento dell'esecutività della pena. A quel punto o la grazia data, oppure c'è il carcere. Esatto. C'è il carcere o la grazia. Belotti, che dobbiamo, qua dobbiamo concludere, non lo so, non riapriamo altre polemiche, che dobbiamo fare? No, non riapriamo altre polemiche. Diciamo, c'è il carcere, immaginiamo chi potrà trovare in carcere il signor Monella, magari quegli albanesi che, magari i complici che non sono stati trovati di quel ragazzo ucciso, oppure questi ultimi, quest'ultima banda di albanesi rapinatori che sono stati in questi giorni, e magari se li troverà anche nella stessa cella. Allora, magari, però questo, come andrà a finire? Questo dico, Belotti, che ragionamento è? Allora mettiamo in caso che un carabiniere commette un reato, va in carcere, che persone trova? Le persone che ha arrestato? Ebbè, ma se ha commesso un reato deve andare in carcere lo stesso, non crede? No, questo è il reato, non è andato a cercarselo. No, ma vabbè. E soprattutto a questo punto, in base alla teoria del dottor Tinti, invito tutti gli ascoltatori, i gioiellieri che si trovano magari un rapinatore in negozio, chiunque magari si trova un rapinatore in casa, di chiedere prima gentilmente che cosa vuole fare. Va bene. Allora, dai, ci fermiamo qui per il momento. Ringrazio Daniele Belotti, segretario provinciale della Lega Bergamo, il sindaco di Arzago d'Adda, Gabriele Riva del PD e Bruno Tinti. Alla prossima, staremo a vedere come va a finire. Intanto, dopo il traffico, parliamo di quello che succede al Senato, quindi politica pura. Lo faremo col senatore Nicola Morra, che è vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Movimento 5 Stelle, che è già qui con noi, che saluto. Buongiorno, senatore, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, 30 secondi e parliamo di quello che sta succedendo al Senato. 24 mattino. Allora, oggi Massimo Franco, prima pagina del Corriere della Sera, nelle sue editoriale scrive: si può anche sostenere che è cominciata ieri la settimana decisiva per le riforme, ma sarebbe la decima volta che si dice negli ultimi 3 mesi o giù di lì. Per la verità, noi, caro Franco, editorialista sommo del Corriere, contiamo le settimane decisive, siamo alla 64esima per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province di questa legislatura, e mi fermo qui, non vado nel passato. Comunque, senatore Morra, lei si sente allucinato, come dice il ministro Boschi? Questo è il tema. No, non si sente allucinato. No, io mi sento molto molto lucido e cerco, come ho fatto anche in gioventù, di rimanere sempre attento alla realtà, perché è compito di noi esseri umani prestare poca attenzione a fenomeni mitologici ed essere molto razionale. Si sente allora un sasso sui binari. Guarda che però questa immagine del sasso sui binari è molto efficace, di Renzi, cioè c'è il treno delle riforme in corsa e ci sono dei frenatori, dei sassi come lei, come quelli del Movimento 5 Stelle, come altri, che vogliono far deragliare tutto. Guardi, il treno può pure essere in corsa, ma se va a sbattere credo che sia compito di chiunque cercare di in qualche modo di fermarlo. Poi se lo vogliamo far andare a sbattere a maggior velocità ancora, continuiamo in questa direzione. Io ricordo che quello che sta succedendo in aula è anche conseguenza di quello che è successo in commissione, perché in commissione, ed è giusto che gli italiani sappiano questo, quasi tutti i nodi che venivano al pettine, piuttosto che essere affrontati e risolti, venivano semplicemente rinviati, per cui tutti gli emendamenti che da tutte le parti presentavano aspetti di significatività venivano semplicemente rinviati ed accantonati per l'aula. Adesso non ci si deve stupire se poi emergono problemi. Ma non ci si stupisce neanche se ci sono 8.000 emendamenti. Voi quanti ne avete presentati? Guardi, io non vorrei sbagliare, ma mi pare che siano 129. Ah, pochini, dai, pochini. Sì, ma non è una questione di pochini. Noi li abbiamo finalizzati ad entrare nel merito di questioni che per noi sono irrinunciabili. I colleghi di SEL hanno avanzato una politica diversa, ma ci sono anche, se non ricordo male, circa un migliaio di emendamenti da parte di cosiddetti frondisti di Forza Italia. Sì. Ce ne sono altri di frondisti di Scelta Civica, di Popolari per l'Italia, dello stesso PD. Per cui, come lei nota, il fronte dei cosiddetti allucinati è un fronte particolarmente... Ma sa che arriva il vice ministro, il sottosegretario per la verità alle riforme Pizzetti, oggi fa un'intervista ad Avvenire e dice: non escludiamo la ghigliottina che tanto diede problemi in passato, cioè il basta discussione, si vota, perché bisogna votare entro, secondo Renzi, entro l'estate. E voi come altri volete invece, come dire, non fargli acquisire questa vittoria, farsi tutto. Ma guardi, ieri lo stesso Vito Crimi ha in aula avanzato una proposta che a nostro avviso risolverebbe tanti e tanti problemi. Se si vuole andare in una direzione, già che noi non reputiamo di aver la verità, si chieda attraverso un referendum consultivo che si può organizzare da qui all'inizio del 2015, si chieda al popolo sovrano che cosa voglia in merito per esempio alla riduzione dei parlamentari e in merito all'elettività del Senato. In questo modo due delle questioni più dirimenti potrebbero essere risolte senza ledere il principio sommo di una democrazia, cioè quello per cui le decisioni ultime spettano al popolo. Le decisioni ultime al popolo, ma non si è discusso molto. Sai che Renzi dice si è discusso, si sono fatti dibattiti, eccetera. E poi qualcuno decide, qualcuno a maggioranza si deciderà, poi non è che fanno un colpo di Stato, il Senato. Se posso permettermi, le discussioni sono belle, sono interessanti sempre che ci sia ascolto, ma se al contrario la discussione avviene con i tappi nelle orecchie, si può discutere anche per anni, ma tanto non si va avanti. Come le ho detto in commissione, il governo, la maggioranza ha semplicemente rinviato all'aula i problemi. Ora le discussioni nascono per poter venirsi incontro e trovare una sintesi, ma se al contrario io pregiudizialmente già stabilisco che non si potrà avere alcuna sintesi, la discussione è francamente inutile. Cos'è il punto che più non vi piace? La non elettività del Senato? Questo è il punto essenziale? Guardi, questo è uno dei punti. Poi per esempio il mantenimento dell'immunità parlamentare, e non soltanto per i futuri senatori, perché a nostro avviso l'immunità è un privilegio fra i più odiosi che dovrebbe essere tolto sia alla Camera che al Senato. Poi la riduzione dei parlamentari, poi si potrebbe ragionare, e su questo uso il condizionale proprio per dimostrare che c'è apertura, sulle funzioni che noi dobbiamo attribuire agli enti locali. Mi lasci anche effettuare una riflessione: noi paradossalmente con questo testo, il testo che è arrivato in aula, sottraiamo agli enti locali competenze, togliamo a legislazione di materia concorrente e in pratica competenze che un tempo dovevano essere affrontate insieme da Stato centrale ed enti locali, e poi paradossalmente, quasi a voler dare un contentino agli enti locali, diamo vita ad un Senato della Repubblica che sulla carta, come lei ricorda, si doveva chiamare Senato delle Autonomie o Camera delle Autonomie, appunto quasi a dire t'ho tolto parecchio potere, t'ho tolto parecchie competenze, comunque allora per farti contento ti do una Camera. Questo francamente, e non l'abbiamo notato noi, ma l'hanno notato accademici, quindi anche a voler replicare al ministro Boschi, secondo cui, citando Fanfani, in politica non si mente, l'Accademia ha anche fatto le pulci a questo provvedimento, perché non è assolutamente vero che l'Accademia sia soltanto schierata sul fronte governativo. Ci sono docenti universitari, sì, e questo è verissimo, che sono a favore di questo provvedimento, ma ce ne sono tanti altri, e altrettanto se non più prestigiosi, che invece sostengono che trattasi di errore clamoroso. Per concludere, mi dica che succede all'interno del Movimento 5 Stelle. C'è un po' di maretta nei confronti del ruolo di Luigi Di Maio, che pare stia diventando sempre più potente? No, veramente, guardi, fra di noi la potenza è misura della capacità di mettersi a disposizione del progetto, per cui Luigi è stato uno di quelli che più degnamente hanno saputo svolgere il loro ruolo, ma ce ne sono tanti e tanti altri che hanno le stesse capacità, per cui non c'è assolutamente maretta, c'è soltanto concordia. Ogni tanto naturalmente ci possono essere dei processi in cui per difficoltà di comunicazione si genera sul momento qualche piccola incomprensione, ma poi tutto ritorna a posto, perché fra di noi c'è concordia e armonia. Concordia e armonia, vabbè, ce ne vorrebbe un po' di più al Senato. La ringrazio intanto, senatore Nicola Borra del Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere se questa riforma farà i passi avanti oppure no. Noi ci fermiamo, ma solo per un pochettino, perché come sapete andremo avanti fino a venerdì, fino alle 9.30, fino a venerdì, perché poi io vado in ferie. Ma dopo la pubblicità, il giornale radio, parleremo delle multe. Cari cittadini che siete al volante, Milano è la capitale delle multe. Cari cittadini che siete al volante, Caserta è l'Eldorado delle multe, cioè si pagano 60 centesimi pro capite in un anno. 800 24 00 24, parliamo di multe, chiamateci guidatori incazzati. 24 mattino. Allora, sono le 9:06, andremo avanti fino alle 9:30. Ben ritrovati da Alessandro Milan a raccontare che cosa? Ciò che ieri il Sole 24 Ore metteva in prima pagina come titolo principale, cioè: cari automobilisti, molti di coloro che ci stanno ascoltando sono in questo momento alla guida, vi state spostando, andate al lavoro, dovete fare le vostre commissioni, lavorate magari spostandovi coi mezzi, automobilisti nel mirino delle multe, raccontava ieri il Sole. Capitale delle multe è Milano, e invece in questa classifica all'ultimo posto è Caserta. In realtà, parliamoci chiaro, non è tanto il numero delle multe che si calcola in questa classifica, ma il numero delle entrate, cioè quanto i comuni incassano dalle multe. Allora voglio salutare insieme al nostro Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Maurizio, buongiorno, ci aiuterà a capire qualcosa in più. Saluto Marco Granelli, che è assessore alla sicurezza e coesione sociale e anche la delega sulla polizia locale al Comune di Milano. Buongiorno assessore, eccoci. Buongiorno a voi. Così come saluto il sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio. Buongiorno sindaco. Buongiorno, salve. Felicissimo che non paghino le multe a Caserta. Ma cos'è? Non le pagano? Allora, a Caserta si paga di multa pro capite in un anno in media 60 centesimi, casertani 60 centesimi, a Milano sono 170 euro a testa. E come mai a Caserta 60 centesimi, sindaco? Che si lamentano lo stesso i cittadini delle multe che facciamo, immagini lei, ma non le pagano. Immagini lei ha meravigliato. No, non è che non le paghi, sicuramente ci sarà qualche normale problema relativo agli incassi, ma c'è in tutti gli enti pubblici, e dovremmo poi discutere come le contabilità degli enti vengono sviluppate. No, io non mi meraviglio, voglio dire, non comprendo come mai nel momento in la città di Caserta, diciamo, un record in qualche modo positivo, ci si debba meravigliare. Ma perché è positivo? Cioè, nel senso, voglio dire, è positivo. Non ci sono multe. Probabilmente i cittadini sono anche disciplinati da questo punto di vista. Poi le problematiche, casomai, sono altre, però non credo che desti meraviglia a questo dato. Le multe sono poche in questo settore, perché la gente probabilmente fa altri tipi di infrazione, siamo concentrati in tante altre attività da parte della nostra polizia municipale. Però almeno su quello, al volante, i casertani sono ordinati, diciamo così, quindi prendono un po' di molto. Caserta è una città piccolina, voglio dire, io ci tengo anche a mettere in evidenza come Caserta sia una realtà serena quando facciamo, e lo sanno bene gli esperti del Sole 24 Ore, la città di Caserta, quando si fanno le varie statistiche nazionali, quelle del Sole, città, non la provincia, al 43esimo, 44esimo posto in termini di vivibilità, la provincia poi casomai crolla al 101esimo, ma la città di Caserta. Ecco, l'orgoglio del sindaco, no? L'orgoglio del sindaco, la provincia è un disastro, ma il comune in alcune realtà è un disastro, in alcune realtà, la città, per carità, non tutte, ma la città è una città degnissima dove si vive bene in serenità e non deve meravigliare che i cittadini casomai rispettano le regole del codice della strada. Comunque 800 24 00 24, se volete intervenire. Assessore Granelli, invece, essere al centro, essere in testa alla classifica, come vi pone? Orgogliosamente a dire recuperiamo ciò che diamo come multe ai cittadini di Milano e non solo, oppure è un qualcosa che vi fa vedere come una città un po' vessatrice nei confronti di chi va in macchina? Quando si dà una sanzione per un'irregolarità, c'è un corpo di polizia locale che cerca di far rispettare questo e un'amministrazione che cerca di essere efficiente, che è un criterio di giustizia, perché se si cerca di far pagare le multe vuol dire che si evita che i furbi che non paghino, diciamo, in qualche modo la passino liscia rispetto agli onesti che pagano. Quindi io penso che fare le sanzioni e farle pagare sia un dovere dell'istituzione e un criterio di giustizia, oltre che sicurezza stradale, perché non dimentichiamo che la velocità, la sosta irregolare, il passaggio con rosso sono tra le cause dell'incidentalità. Allora dopo non possiamo fare le campagne per l'omicidio stradale, stracciarci giustamente le vesti quando un bambino in bicicletta costretto a bypassare le macchine in doppia fila finisce sotto il tram e poi dire non facciamo le multe. No, ma guarda, io sono assolutamente d'accordo con lei per la questione della velocità. Io ho preso una multa di recente uscendo dalla tangenziale, cioè l'autovelox. Io, guardi, sulla velocità non discuto niente, cioè dico è giusto, ci sono dei limiti di velocità, dobbiamo abituarci, gli italiani devono abituarsi che ci vuole un po' di rigore in queste cose, magari altri tipi di multe, non so, quei divieti di sosta, quelle cose che in città francamente è un po' invivibili, tutti quelli coloro che vivono nelle grandi città capiscono che, insomma, a volte trovare un parcheggio è una roba quanto mai assurda, magari sono quelle sulle quali i cittadini protestano di più, o è un po' più comprensibile, se non altro, una qualche lamentela. Però fatemi coinvolgere Maurizio Caprino. Caprino, ovviamente Roma è la città che ha incassato di più, 154 milioni, ma a Roma ci sono più persone, quindi che guidano, 88 euro di media di multe incassate ai patentati, mentre Milano ha 132 milioni 170 euro, appunto, in testa alla classifica. Condividi l'ottimismo del sindaco di Caserta che dice ma che c'è da stupirsi su questa cosa? Ma diciamo che non lo condivido, perché il problema ha anche un altro corno, diciamo, finora è stato affrontato uno solo. Allora, quei risultati lì, che come dicevi tu giustamente sono le cifre incassate, sono la somma, diciamo, della solerzia dell'amministrazione nell'incassare le cifre, della solerzia dei cittadini nel pagare e dell'impostazione che l'amministrazione ha dato ai suoi servizi di polizia locale, nel senso che se tu hai un corpo di polizia locale e lo imposti per fare una lotta senza quartiere, o quasi, perché poi non è possibile nella realtà, diciamo, alle infrazioni stradali, allora è un conto. Se tu lo usi per fare lo sceriffo e fare la caccia di immigrati clandestini è ben altra cosa. Se invece lo usi semplicemente, come purtroppo succede ancora, per dare lavoro a della gente senza poi pretendere particolare efficienza, è un'altra cosa ancora. Quindi voglio dire, dipende anche dall'accanimento, tra virgolette, che ci mettono, che viene messo nel accertare le infrazioni. Sì. Accanimento che può essere sia umano, tipo appunto l'accertamento del divieto di sosta, che dipende soprattutto dagli ausiliari e dai vigili, da quanto, insomma, vengano, tra virgolette, aizzati, e dipende poi anche dalle scelte sugli apparecchi elettronici, che sono particolarmente gli autovelox, perché lì le sanzioni sono molto più pesanti. Quindi ovviamente se tu scegli di calcare la mano sui controlli elettronici, fai, è chiaro, fai cassa, si può, c'è il rischio di fare cassa, c'è da dire fai che si sì, ecco, diciamo così, fai risultati, solo che ecco, sindaco, lei non può, sindaco del Gaudio, non potrà essere accusato di voler far cassa con le multe, perché non, no, le paga, non le paga la gente, evidentemente. No, ma no, però guardi, per questo concetto, allora, primo, noi siamo un comune che nel rispetto della normativa nazionale, tempo fa abbiamo dichiarato dissesso, quindi stiamo risanando. E un concetto fondamentale che voglio mettere in evidenza: io non risano l'ente facendomi dare i soldi dai miei concittadini, quindi noi le multe le facciamo quando le dobbiamo fare, non è che le facciamo perché bisogna incassare, perché questo è un altro concetto che deve essere chiaro in termini di sana amministrazione. Secondo, non è che facciamo le multe e poi non incassiamo, nel senso che il cittadino è impunito. Noi facciamo le multe che dobbiamo fare, quelle che facciamo le incassiamo pure. Tutte. Cioè il Sole dice avete incassato 24.000 euro in un anno, cioè Milano 132 milioni di euro, si capisce? Ma guardi, fare l'effetto da un punto di vista finanziario con la città di Milano, la città di Napoli, la città di Roma, non credo che sia un esempio plausibile, perché noi che... dati del Ministero dell'Interno, sappiamo le nostre città in che situazione economica si trovano. Noi non stiamo tirando avanti, noi, ripeto, concetto fondamentale, abbiamo dichiarato dissesto finanziario e siamo ripartiti proprio perché non vogliamo mettere in bilancio milioni di euro di multe sapendo che non si incasseranno mai perché il cittadino non paga. Perché dice, le mettiamo a bilancio, no, le mettiamo a bilancio. Non gonfiamo, io non mi permetto di dire che lo facciano gli altri, no. Non gonfiamo il bilancio. Certo è che le priorità dei nostri vigili urbani, che come sapete oggi sono agenti di polizia giudiziaria, quindi hanno tantissimi compiti, non sono, sono rivolte anche a, ad esempio, noi proprio ieri abbiamo deliberato di mettere dei tutor come quelli che sono nell'autostrada in una variante che gira attorno la città. Allora, in quel caso lì è un intervento minato. Poi io non posso tenere in città i vigili a fare gli sceriffi nel momento in cui le problematiche sono altre. No, ma perché sceriffi no, però prima di tornare un attimo dall'assessore Granelli a Milano, l'accusa... Fate un giretto nella mia città e vi renderete conto che il problema sono sicuramente, ecco, i parcheggiatori abusivi, gli extracomunitari, cioè la mia polizia municipale, noi sindaci siamo poi comandanti della polizia municipale, la indirizzo più a determinate cose piuttosto ma no che... ma guardi poi lei è alla coda di questa classifica, abbiamo chiamato lei al penultimo posto, c'è cioè il sindaco di Isernia, avremmo chiamato Isernia, insomma vi trovate appaiate ad altre realtà. Fatemi sentire qualche ascoltatore prima di tornare dall'assessore Granelli. Sara da Bologna, buongiorno. Bologna è al terzo posto, Bologna 143 euro per patentato all'anno. Pagate. Lo so bene perché quanti ne ha pagate? Ha ricevuto delle multe? Non particolarmente, però sono all'opera qua, gli ausiliari, la polizia qua, cioè i vigili qua lavorano anche sulla strada. Ed è giusto non arrivare davanti a un negozio e trovare sempre la doppia fila. Ovunque, cioè sono stata al sud in motorino caricati, senza casco. Da noi questa cosa non succede. La legge è uguale per tutti in Italia, porca paletta. Porca paletta del vigile, ovviamente, quella del vigile. Va bene, Sara, grazie. Emanuele, sempre a Bologna. Emanuele, buongiorno. A Bologna siete incattiviti un po', eh? Emanuele, buongiorno. Non ci sente. Andiamo allora a Caserta. C'è un ascoltatore da Caserta, Francesco. Buongiorno, Francesco. Buongiorno Milano. Dica. Io le premetto che sono di Caserta, ma lavoro a Milano. Sì. Sono l'esatto termometro. Perfetto, cioè lei conosce la prima e l'ultima della classifica, è certo. Fantastica questa cosa. E quindi? E quindi le dico che io a Milano sono vessato. Il concetto che diceva prima il sindaco del Gaudio. Sì. Caserta con il sindaco è riuscito ad aprire i parcheggi. Noi avevamo un problema di parcheggio a Caserta che era allucinante, non si riusciva a parcheggiare. Adesso io, se arrivo a Caserta, parcheggio. Quindi, perché secondo me le percentuali di quali sono le multe è quello che bisogna fare la verifica. Cioè a Milano io, se mi permetto di fermarmi un attimo sulle strisce gialle, che quindi sono quelle adibite agli abitanti del posto, per prendere il grattino dell'ARC. E quindi io arrivo, faccio 5 un passo, minuti dopo, track. No, 5, 30 3 minuti. Io penso che i vigili urbani di Milano sono i più veloci del West. Sono con il teletrasporto. No, col teletrasporto. Allora io quando vado a giustificarmi davanti al vigile dico: guardi, attenzione, guardi, io sono uscito con il grattino perché devo pagare l'area C, ok? Salata l'area C, lei sa sì, quanto costa, sì, l'area vabbè, C, no? Voglio dire, ok, io prendo la multa perché lui mi dice la legge è uguale per tutti. A me questo fatto della legge è uguale per tutti è una cosa che mi lascia basito, perché a Caserta non abbiamo la stessa vessazione. Vabbè, insomma, lei dice a Milano la vede come una vessazione. No, siccome c'è l'assessore Granelli, qua voglio capire, ci aiuti a capire che tipo di multe sono quelle che portano così tanti introiti. E dice l'amico di Caserta, qui a Milano c'è la vessazione continua dei vigili. Ma guardi, allora, avere vigili così efficienti col teletrasporto, provi a portarla in giunta. Molto bene, ecco, provi a portarla in giunta come proposta. Mi piacerebbe conoscere l'ascoltatore, fare un giro con lui per la città e poi vedere quante volte accade così. L'area C si può pagare in 10.000 modi, non c'è bisogno di mettere l'auto sulle strisce gialle, e le strisce gialle tutelano i residenti. Noi abbiamo come città più di 500.000 auto che ogni giorno entrano da fuori, quindi intanto al sole 24 ore direi, quando si fanno i conti bisogna saperli fare bene, perché se io divido il numero delle sanzioni solo per il numero di chi ha la patente in città, dico, faccio una cosa non vera, perché a Milano circolano ogni giorno almeno 500.000 auto di gente che viene da fuori, tanto è vero che di tutte le multe che vengono fatte il 60% è a chi, da chi viene fuori. Ma sono sempre, sono sempre soldi, no, che incassate voi. Sì, ma dico, no, ma viene 170 cittadino. Cioè dice, beh, no, sono diciamo 80, 70, okay. Cioè 170 a multa nel comune di Milano. Vabbè, nel comune di Milano, diciamo, no, perché le multe, le ripeto, le multe le facciamo a tutti quelli che circolano. Sì, in chiaro. Città. Ecco, ma questo allora, però sarebbe con tutta 60... l'Italia, scusi assessore, con tutta l'Italia che si sposta, anche un camionista di Pordenone che prende una multa a Torino risulta di Torino, cioè sarebbe impossibile contare tutte le persone che si... Mi dice, se il sole mi dice ogni cittadino milanese paga 170 euro di multa, è profondamente sbagliato, perché è proprio matematicamente, le cose bisogna saperle fare bene. E poi l'altra cosa che io sottolineo è che la maggioranza delle multe, circa il 60%, sono quelle con telecamere e non sono gli autovelox, ma sono soprattutto quelle che reggono le zone a traffico limitato. La città di Milano ha un centro storico molto stretto, abbiamo fatto la scelta dell'area C, è una scelta che ha un grosso gradimento nella città, perché ha permesso una miglior velocità del mezzo pubblico in centro e una migliore vivibilità della città. Abbiamo ampliato le zone pedonali, le ZTL della città, proprio perché quando ci sono troppe auto in una città non si trova posto, si muove con difficoltà, eccetera, e noi vogliamo privilegiare il mezzo pubblico. Milano, fortunatamente, i cittadini milanesi usano più del 50% il mezzo pubblico, e abbiamo potenziato le metropolitane. No, ma su questo, guardi, io quindi... sulla disincentivazione dell'utilizzo del centro anche nelle città, su questo, Caprino, tu sei d'accordo che bisognerebbe arrivare in un sistema per cui si viaggia oggi leggevo c'è una capitale europea, adesso mi sfugge quale, dove in Islanda, sì, Reykjavik. Anche Helsinki. Dove vorranno praticamente bandire qualsiasi tipo di macchina, si va nel centro soprattutto, ovviamente con mezzi pubblici efficienti che ci siano. Maurizio, potrebbe essere questa una svolta per il futuro, anche per evitare multe? In Italia la vedo molto dura. Milano è la città che sicuramente sta facendo di più in questa direzione, però questo per il momento si sta traducendo soprattutto in un disincentivo, cioè questi disincentivi all'uso del mezzo privato si traducono soprattutto appunto in multe. Perché è vero che all'interno della città i mezzi funzionano abbastanza, però è altrettanto vero che la città ha un hinterland sterminato al cui interno ci si muove ancora con troppa difficoltà, e per cui è privilegiato chi abita in città, chi abita poco fuori e lavora a Milano. Sì, però devo dire, Antonio, scusa Maurizio, devo dire, secondo te abbiamo questa cultura, cioè siamo un po' della cultura della lamentela quando ci mettiamo in macchina, no? Vogliamo sempre tutto garantito, spostamento. Guarda, su questo non c'è dubbio, però diciamo anche che un pendolare, cioè diciamo, allora Milano per disincentivi che sta frapponendo all'uso dell'auto, sicuramente non ti fa venire voglia di usarla, per cui sospetto fortemente che chi oggi usi l'auto a Milano in gran parte sia costretto a farlo, cosa ben diversa in altre città, soprattutto al sud, dove compri, dove ti metti in auto anche per comprare il giornale dell'edicola all'angolo. Sì, questo è vero. Distinguiamo bene le cose. Allora, poi una piccola cosa a difesa del Sole 24 Ore: il collega che ha scritto l'articolo ha precisato benissimo che a Milano e anche in altre città circolano molti pendolari. Certo. No, ma è chiaro, ma anche perché andare a calcolare comune per comune le entrate e di multe che sono attribuite a persone che effettivamente poi vivono in quella città, sarebbe un calcolo, voglio dire, quasi impossibile. Comunque vorrei sentire Teresa da Caserta, anche lei ci chiama. Teresa, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo appoggiare il sindaco, nonostante che ho subito la rimozione forzata del veicolo e un paio di multe, ma comunque Caserta è una città piccola rispetto a Milano, poco servizio pubblico, trasporto pubblico, tante auto, vetture private che circolano e sostano soprattutto su strisce blu numerate, quindi la domanda dovrebbe essere quando incassa il comune dal parcheggio pubblico. Immagino che tutti la paghiate, perché se non ci sono le multe. No, ma io devo dire che io ho un'estazione napoletana, nel momento in cui mi sono trasferita a Caserta ho notato la differenza. Sicuramente il cittadino è molto più educato, anche perché sa che nell'ipotesi in cui riceve o una rimozione o comunque una multa c'è un ente che non è diciamo pubblico, ma un ente a cui è stato affidato la concessione dei tributi, che è un'Equitalia 2, quindi non è che si scherza. Ah no, ma è chiaro. Allora, grazie Teresa, mi scrive un ascoltatore: ma le multe a Caserta le pago solo io? Sono un camionista di Pordenone. Non lo so, caro amico camionista di Pordenone, se ne prende solo lei. Andrei da Francesco da Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, sì, dica. Perfetto, perché mi sta guardando un vigile, no. Non posso spostarmi. Ho messo l'altoparlante, però adesso ce la facciamo. È già quasi multo, insomma, stia attento. Vigile. No, volevo ribadire, mi dispiace per l'assessore, pur apprezzando tutto quello che sta facendo con il Bike Me e con i Car to Go e con tutto quello che serve per diciamo rendere più efficiente il trasporto pubblico, però io mi sento effettivamente vessato dal punto di vista delle multe, perché non trovo che siano sempre diciamo finalizzate alla sicurezza e all'ordine, ma ho la sensazione che invece siano anche per fare di più alle spese del povero. Vabbè, Francesco, questa, assessore Granelli, è una questione che molti, ricordiamo che le multe dovrebbero utilizzate, gli introiti delle multe dovrebbero essere utilizzati in una percentuale, che Caprino ci può aiutare. Maurizio, quant'è la percentuale? Almeno il 50% per investire sulla sicurezza sempre. Sì, noi facciamo una delibera ogni anno dove spiegato come è indicato come viene utilizzato il 50%, e tra l'altro proprio smentire questa cosa della cassa, noi quando abbiamo messo gli autovelox in città abbiamo messo i cartelli previsti dal codice della strada, in più ne abbiamo messo per ogni punto altri cartelli gialli con indicato attenzione autovelox, in quello sul viale principale d'ingresso in città abbiamo messo un pannello 800 metri prima di quelli a messaggio variabile grande in mezzo che dice attenzione rallenta autovelox. E com'è che oggi sa che oggi la Lega, prima avevo Aurora Lussana, direttore della Padania, alle 6:30 del mattino, certo. Noi iniziamo in queste ore antelucane, e sa che ha detto che oggi alle 11 fanno un sit-in dove? In un viale dove c'è appunto... viale Enrico Fermi, che conosco bene, dove c'è viale... l'autovelox. Dove c'è un autovelox, quello è un luogo dove ci sono stati diversi incidenti, alcuni anche mortali, e quindi c'è un punto dove si dice di rispettare il divieto di 70 all'ora, c'è l'autovelox, lì la maggioranza dei cittadini lo segue, ci sono alcuni che... Quindi ti sembra una protesta politica illegittima, una protesta politica sbagliata. Illegittima, per carità, tutte le proteste sono legittime, ognuno, ogni consigliere è giusto e fa il proprio, svolge il proprio ruolo, ecco. Io penso che lì l'autovelox c'è, è segnalato, abbiamo fatto una campagna, quando è iniziato l'abbiamo fatto iniziare prima, flashando solo senza sanzionare, facendo un volantinaggio, cioè insomma, abbiamo cercato di fare in modo che tutti sapessero di uno strumento. Insomma, su questo devo dire, ma la gente rispetti i limiti di velocità, e questo Maurizio, ma effettivamente, cioè, perché uno se va oltre il limite di velocità, con tutto quello che comporta la sicurezza sulle strade, poi si deve lamentare? Cioè, Maurizio? Il caso Milano è particolarmente significativo, perché nonostante tutte queste cose che diceva l'assessore, quindi queste cose di visibilità degli apparecchi, il preannuncio, eccetera, molta gente c'è cascata lo stesso, nonostante abbia visto con i giorni che venivano montati questi apparecchi, quindi vuol dire che la gente non solo e non tanto va veloce, ma ha la testa altrove. Esatto. Vorrei un attimo prendere il sindaco del Gaudio, quindi tutto a posto, l'Isola Felice, ha visto che i cittadini... Mi fa piacere che dei cittadini che vivono a Caserta o che vivono a Milano capiscano la differenza, no? Guardi, sì, mi faccia dire un'altra cosa, perché è giusto quello che ha detto l'ascoltatore di Francesco di Milano. Noi abbiamo anche dei parcheggi nei quali quando scatta l'isola pedonale, per tutta la durata dell'isola pedonale, quindi circa 10 ore, si paga 1,50 euro, quindi chiaramente questo incentiva il cittadino, quello disciplinato, quello chiaramente tra virgolette civile, a parcheggiare l'auto pagando 1,50 euro, quindi non arrischiare nulla. Oltretutto poi abbiamo anche un sistema di parcheggi con le strisce blu che dà una tolleranza di 10 minuti, nel senso che fino a 10 minuti dalla sosta tu non paghi, e poi ti dà la possibilità di pagare una sorta di multino entro le ore 24 qualora tu parcheggi. Quindi ha capito, c'è tutto un sistema che abbiamo inventato per non vessare il cittadino, anche perché a me i vigili interessano per fare altre cose. Questo l'abbia detto. Fatemi chiudere con Alberto da Roma. Alberto, buongiorno, siete al 14° posto, 88 euro appatentato, ma raccogliete 154 milioni, è il comune che raccoglie di più ovviamente, ma siete in tanti. Alberto, che dici? Buongiorno dottor Milan, io seguo la sua trasmissione con molto interesse e la ringrazio, però credo che questa mattina stia dando, mi pare almeno di percepire, un messaggio fuorviante rispetto alle violazioni dei divieti di sosta. Ora, il problema dei divieti di sosta è uno dei problemi più grandi delle città, perché complicano la vita ai cittadini, perché impediscono la circolazione, già complicata e già difficile. Ora, dire che in fondo sa prendersi un caffè non vuol dire prendersi nulla. Il caffè mi no sembra appunto dare un messaggio sbagliato. Prendere il caffè no, per lasciando la macchina in doppia fila, ma succede nel traffico delle grandi città. Lei vive a Roma, lo sa meglio di me, ma anche a Milano, che uno magari deve fare, porca miseria, proprio una commissione, cioè ha un'emergenza di 3 minuti, ma potrà capitare, no? Oppure uno deve arrivare a un appuntamento, non può spostarsi con i mezzi, e capiterà insomma che uno deve in qualche modo abbandonare la macchina a 3 minuti, può capitare, no? E il parcheggio non si trova. Comunque ringrazio tutti, il sindaco di Caserta Pio del Gaudio, Marco Granelli, assessore a Milano, e Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui, ma siamo pronti domani a ripartire alle 6.30. Ricordate Alino Milan, quello è il mio profilo Twitter, e con Giorgio De Luca, Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli vi do appuntamento insieme a Carmelo Lauricella, se vorrà, domani alle 6.30.